La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Eccoci qui in diretta. Vi ringrazio per l'ascolto, anche per il podcast. Questa volta da Roma, in una Roma un po' piovosa. Oggi mi hanno detto che non pioveva, invece piove oggi da Roma. E eccoci qua a ringraziarvi e a annunciarvi di che cosa parliamo oggi nella nostra trasmissione. Come tutti gli anni, da qualche anno a questa parte, io dedico una trasmissione al rapporto annuale che fa il Centro Studi Economia Reale del professor Mario Baldassarri. Perché? Perché è un'occasione da parte di un economista di cui io apprezzo in particolare la sua formazione, la sua cultura, l'aver sciacquato i panni quando era giovane anche, diciamo, in un altro continente e così via, ma perché continua a fare un'analisi sulle cifre ufficiali dei documenti del governo di anno in anno, rimettendo un po' le cifre in grado di dire quello che dovrebbero dire le cifre, invece che, come avviene spesso nei dibattiti politici, facendogli dire cose diverse da quelle che dicono. E allora, poiché siamo all'indomani, in questo mercoledì 15 di novembre, della presentazione appunto dell'aggiornamento del rapporto del Centro Studi Economia Reale, in questa trasmissione, io ve lo dico subito per capire che cosa vi aspetta, scopriremo insieme alcune perle, perché scopriremo innanzitutto che cosa dobbiamo a, come dico spesso a questi microfoni, a San Mario Draghi, cioè alle politiche della BCE in questi anni, e scopriremo che l'effetto 2012-2017 del QE di Draghi, delle altre politiche non ortodosse, che grazie a un Draghi che è riuscito a far dare alla BCE una governance per cui si vota quasi regolarmente con i tedeschi in minoranza, comunque è capitato molto spesso, con Trichet era impensabile, noi vedrete che arriveremo a una valutazione degli effetti su il PIL in questi anni 2012-2017, gli occupati, e vi dico solo che gli dobbiamo, insomma, nel PIL 2017, senza quello che San Mario Draghi ha fatto, il vero scudo sull'Italia, noi avremmo avuto il segno meno praticamente per tutti questi anni e avremmo un PIL di 145 miliardi di euro in meno. Quindi, cioè, vedrete come arriviamo a questo, ma intanto partiamo da questo. Seconda osservazione: mettiamo in fila tutti i documenti economico-finanziari, i DEF, le note di aggiornamento del DEF di tutti i governi, da Berlusconi, Monti, fino ai tre governi successivi, e poniamoci il problema: che cosa prevedevano e che come è andata davvero? Vedrete che c'è una costante in tutti: cambia il colore politico, quindi un governo di centrodestra, un governo tecnico, quello di Monti, governi di centrosinistra, però vedrete che alla fine c'è come una nota di continuo, come il basso continuo in un certo tipo di musica barocca, e vedrete che ci sono delle costanti. Poi, che cosa è successo davvero in questo paese in cui molti piangono per l'eccesso di austerità sulla spesa pubblica in questi anni? Andiamo a vedere la spesa pubblica in questi anni, a che cifre si è attestata anno per anno. È diminuita la spesa corrente o sono diminuite solo quelle per investimenti ed è diminuito quello per il costo del debito grazie a San Mario Draghi? Ecco, ci poniamo anche questo problema. Entrate, idem, tutti dicono abbassiamo le tasse. Bene, andiamo a vedere come sono andate davvero le entrate e poi, rispetto alle previsioni di questo governo, la nota di aggiornamento che ha preceduto di poche settimane la consegna al Parlamento della legge di bilancio che è in corso di esame, ecco, rispetto a quelle previsioni, la domanda è: sono forse viziate da un eccesso di ottimismo, che è una delle caratteristiche, come vedrete, un po' di tutte le previsioni dei governi, sulla crescita attesa, il gettito fiscale e così via, oppure è realistico questa volta, cioè questo governo ha preso lezione da tutto quello che sentirete prima? Ecco, queste sono alcune delle cose, ma intanto grazie al professor Mario Baldassarri di essere con noi. Buon pomeriggio. Allora, ma la prima domanda è: ma lei su questo c'ha un proprio modello su cui far girare tutte queste cifre? No, non è un nostro modello, usiamo da oltre 10 anni il modello Oxford Economics per due ragioni. Primo, perché costa poco l'uso del modello, l'abbonamento annuale per noi piccolo centro studi è affrontabile. Secondo, che è la ragione più seria, è un modello che riguarda tutte le economie del mondo, tutte le economie europee, tutte le economie dell'Eurozona e al proprio interno ai singoli modelli nazionali, il che vuol dire che quando facciamo delle simulazioni e delle valutazioni sull'Italia, il modello sull'economia italiana interagisce con tutti gli effetti esterni del resto d'Europa e del resto del mondo. No, e questo è un modello molto importante. Questo come nota di chiarezza metodologica, perché altrimenti uno si potrebbe dire, ma insomma, però come si mettono insieme? Restano sempre previsioni, valutazioni econometriche, che io dico sempre non servono per vedere se uno indovina. il modello econometrico non è una palla di vetro per quale, sulla quale fare i magheggi, ma per dare un quadro di coerenza dei numeri, cioè al limite quando lo usiamo per fare le previsioni per gli anni futuri non significa che vogliamo vedere se indoviniamo quelle previsioni, ma da quei numeri trarre le indicazioni di quali politiche economiche fare sono necessarie per evitare che si realizzino quei numeri. Esatto. Quando sono preoccupanti. Allora, in questo paese che a questo fine anno avrà ancora più di 5 punti percentuali di PIL che mancano Rispetto al 2007 pre-crisi. Lo dico perché stamattina ho animato anche io un dibattito sui social, perché sono uscite dei grafici dal MEF in cui dicevano sul PIL pro capite cresciamo più di tutti, poi ce n'era un altro che diceva dal 2014 a oggi recuperiamo più PIL di tutti, dal 2014 a oggi perché ne abbiamo perso più di tutti. Forse posso, devi fare, dire un, posso fare un esempio, Giannino, che forse ci capiscono meglio. Noi nel 2007 è cominciato, è l'ultimo anno di picco di reddito, di PIL, di occupazione, poi è cominciata la crisi, siamo finiti in fondo ad un pozzo. Esatto. E in fondo a questo pozzo siamo arrivati attorno al 2014 ed eravamo arrivati a meno 10% di PIL. Adesso stiamo dal 2015, 16, 17 fortunatamente risalendo la parete del pozzo, ma non è che siamo fuori dal pozzo. Esatto. Siamo a ancora 4-5 metri dall'uscita dal pozzo. E nel nostro rapporto indichiamo nelle proiezioni a lungo termine quando è che usciremo, esatto, dal pozzo e ci arriveremo alla fine. No, però voglio dire, sul PIL pro capite state attenti quando domani lo leggerete, perché PIL pro capite, capite che o uno vi dice che nel frattempo perdiamo più di 200.000 persone l'anno, quindi PIL pro capite è chiaro che è un PIL anche non molto soddisfacente, ma applicato a un minor numero di persone in questo paese, la demografia è facile dire quanto siamo in testa, però no, non ma è un dato che hanno diffuso proprio perché l'ha già detto lei, è relativo al 2014. E il 2014 è il fondo del pozzo, esatto, e quindi meno male che si risale un po'. Va bene, va bene. Detto tutto questo, io ribadisco per chi si chiederà, il professor Barabasè, molti di voi lo ricordano, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, non fa più politica attiva, non è membro del Parlamento, mi corregga se sbaglio. Dal quindi, 2013, quindi sì. Stiamo sono tornato ad essere economista. Perfetto. Allora, cominciamo da quello che dobbiamo a Marietto Draghi. Beh, lì abbiamo fatto una simulazione molto semplice, cioè ci siamo chiesti, ma se in questi anni non ci fosse stato il quantitative easing, l'abbassamento dei tassi e soprattutto la riduzione del cambio dell'euro, che era con strisciera schizzato a 1,60 il super euro, poi quando l'ha preso in mano Draghi era 1,34 sul dollaro, poi fortunatamente per tutti è sceso a 1,10, adesso è un po' risalito, siamo a 1,16, 1,18. Ecco, se non ci fossero però sempre ben lontano dai picchi, se non ci fossero stati questi tre elementi di politica monetaria che Mario Draghi ha introdotto quando è diventato presidente della BCE, come sarebbe andata l'economia italiana? Ed è evidente che per differenza tra come sarebbe andata se non ci fosse stato Draghi e come è andata storicamente, quello noi lo chiamiamo l'effetto Draghi. Allora, come sarebbe andata? Lei ha già anticipato, il tasso di crescita sarebbe stato negativo in tutti questi anni e ancora nel 2017. Quindi non avremmo ripreso dal dopo 2014. Assolutamente, avremmo continuato a scendere in un pozzo sempre più profondo e nel 2017, quest'anno, avremmo ancora un tasso del meno 0,3%. L'anno prossimo saremmo per la prima volta risaliti in termini positivi al più 0,5 e gli anni successivi a più 0,6. Questo è l'effetto del l'effetto Draghi, in questo senso, o cioè della politica monetaria della BCE, che valeva per tutti i membri dell'area euro. Però questo noi abbiamo misurato l'effetto sull'Italia. Devo dire che effetti positivi analoghi, e non è sorprendente, si sono determinati per l'economia tedesca. Cioè le due grandi economie manifatturiere d'Europa, Germania e Italia, sono quelle che hanno più beneficiato dell'effetto della politica monetaria, quindi italiani e tedeschi dovrebbero portare un cero insieme a San Mario Draghi da questo punto di vista. Io spero che gli italiani non se lo dimentichino, però ecco, vediamo. Il che vuol dire in sintesi che quella che chiamiamo giustamente ripresa dell'economia italiana, cioè il fatto di avere negli ultimi due anni, tre anni, un segno positivo della crescita, non ci sarebbe stato, saremmo stati peggio, e quindi il dibattito in corso un po' surreale se questa ripresa è strutturale o congiunturale. Io dico, prima di questo chiediamoci se questa ripresa è stata indotta dall'esterno, cioè esogena. I nostri risultati dicono che è una ripresa esogena. Poi giustamente il governo può dire, da Renzi a Gentiloni direi, può dire sì, ma noi abbiamo fatto delle manovre che hanno dato impulso a questa ripresa, il che è anche vero, ma per onestà del ministro dell'economia Piercarlo Padovan, il governo stesso ha detto che l'impatto delle manovre l'anno scorso era più 0,2%, quest'anno è più 0,3% sul 2018, la legge di bilancio in corso di discussione. Prendendo atto di questo, vorrebbe dire che sono solo leggi, quindi, per capirci, moderatamente espansive. Sì, cioè il contributo non sì, è. Però in soldoni cosa vuol dire? Che senza Draghi saremmo stati quest'anno a meno 0,3% e senza la manovra del governo saremmo stati a meno 0,5%. Condivido questo, ma non è che mal comune mezzo cavolo. E avremmo avuto, lei c'è scritto nel rapporto 2017, 700.000 occupati in meno. Che insomma. Ma soprattutto l'aspetto più rilevante è che l'impatto di questo di questa ipotesi, cioè se non ci fosse stato Draghi, sui conti pubblici sarebbe stato devastante. Cioè noi ci saremmo, quindi saremmo già commissariati da 2 o 3 anni. Perché? Perché noi quest'anno avremmo avuto un deficit di 100 miliardi di euro e il rapporto debito-PIL sarebbe già schizzato al 160% quest'anno, che vuol dire che già nel 2015 e 2016 sarebbe intervenuta qualcuno la cavalleria aerea. Qualcuno avrebbe chiesto. Quindi questo, diciamo, per dare a Cesare, o meglio, per dare a Mario a ciò Mario che è di Mario e per dare all'economia italiana ciò che è dell'economia italiana. Io la ringrazio perché io sono molto convinto che questo aspetto sia quasi totalmente assente dal dibattito pubblico. La gente non lo sa, non se ne rende conto, ma non sono tenuti, voglio dire, l'opinione pubblica lo sa meglio di me, non ne svelo nessun segreto, a capire nel dettaglio queste cose. Il problema è che quando i politici se le dimenticano, la classe dirigente di un paese, non solo i politici, a dire la verità, questo mi pare un po' più grave. Beh, il perché la classe politica se lo dimentica forse lo possiamo tirar fuori dalla seconda analisi che abbiamo preparato nel rapporto, e cioè come mai i DEF, i documenti di economia e finanza di tutti i governi che si sono succeduti in questa 17ª legislatura, ma includendo anche i governi Berlusconi e Monti, che comunque anche nei loro DEF avevano dato le loro proiezioni sul 2012 e il 2013 come anni di certo, riferimento. Come mai, guardando bene, i vizi sono gli stessi e i numeri non cambiano mai? E quali cioè sono c'è un'isteresi sorprendentemente. Cioè, perché questo uno direbbe, cari ascoltatori, le impostazioni politiche del governo di centrodestra, del governo tecnico Monti e di quelli dei tre governi Letta, Renzi, Gentiloni di questa legislatura dovrebbero essere, non dico opposte, ma quasi. Almeno un po' diverse nei numeri. Tra l'altro nei numeri che loro stessi scrivono, firmano e mettono nei loro documenti. Non è che sono invenzioni. E invece sono sempre uguali. Allora c'è un problema di classe politica che non so quanto non ascolti questo tipo di analisi e valutazione o non le voglia ascoltare, e c'è anche un problema di responsabilità dei mezzi di comunicazione, sì, perché sì, francamente quest'opera di io tengo su Radio Radicale una concorrente, ma insomma non possiamo citarlo, una piccola rubrica ogni lunedì che si chiama Capire per conoscere, per dare supporto al motto di Luigi Einaudi, esatto, che era conoscere per decidere. Ma prima di conoscere bisogna capire. Se ci guardiamo attorno, tutti i media di comunicazione eccetera, purtroppo sono legati allo scoop, al gossip, anche dal punto di vista dell'economia e della finanza pubblica. Sì, sì. Molto meno a comunicare ai cittadini strutturali, cioè, le analisi e quant'altro, ma questo voglio dire non è una critica, ne prendo atto, non sono tante le trasmissioni che, in cui con Oscar Giannino o altre, diciamo, altri conduttori si può arrivare tempo, anche perché sono anche questioni di tempo, poi esattamente. Allora guardiamo i DEF. Cosa appare in questi 5 governi a confronto, quindi a partire da Berlusconi, Monti, Letta, Renzi e Gentiloni. Okay. Primo elemento: tutti i governi nei loro documenti di programmazione economica e finanziaria, che sono la cornice per poi fare le leggi di bilancio, le leggi finanziarie, inizialmente sovrastimano la crescita e sovrastimano l'inflazione. Devo dire per correttezza che nell'ultimo governo Gentiloni questa sovrastima non c'è stata. Non c'è stata. questo va dato atto. Diamo in atto perché è un fatto che rompe una continuità i cui effetti perniciosi adesso verranno descritti. Tant'è che è il primo governo che in qualche modo è costretto a rivedere verso l'alto le proprie stime di crescita. Esattamente. È bene per tutti. Eh certo, siamo okay. Reduci dall'esatto opposto. Però, e non solo quei governi che ho citato, ma da 25 anni, esatto, perché questa è una come tendenza... Centro Studi Economia Reale questa analisi l'abbiamo fatta sugli ultimi 25 anni, non... quindi tutti i governi. Perché si sovrastima la crescita in termini reali e l'inflazione? Perché questo consente di fare delle previsioni future sull'andamento del PIL nominale per maggiore crescita e per maggiore inflazione più alte. Il più alto PIL nominale previsto ci aiuta al denominatore a ridurre il rapporto deficit PIL e debito PIL, tant'è che le due cose si combinano, quindi crescita più alta, inflazione più alta e condizioni di finanza pubblica che appaiono nel tempo più sostenibili. Tant'è che se andiamo a vedere negli ultimi tre anni qual è stato un pochino il giochetto, è stato noi avevamo di fronte il macigno delle clausole di salvaguardia, cioè il fatto automatico dello scatto dell'IVA compreso nella legislazione vigente, cioè nella legge dello Stato, se non si fa nulla quelle scattavano per 19-20 miliardi all'anno e così via, che è una cosa ben diversa però da quello, insomma, almeno dal punto di vista iniziale, dalle clausole di salvaguardia imposte dal governo Berlusconi, perché il governo Berlusconi impose le clausole di salvaguardia ma in quanto quantificabili in automatici tagli di spesa. Poi fu in realtà il governo Renzi sostanzialmente che definì le clausole automatiche in termini di automatico aumento di entrata. Ecco, questa era la differenza. È chiaro che però se il governo Berlusconi non riusciva a tagliare la spesa, alla fine sempre aumenti di entrata si sarebbero stati. Certo. Allora, cosa si è fatto in questi ultimi tre anni? Si è detto dobbiamo assolutamente evitare l'aumento dell'IVA e delle accise, cosa che io condivido totalmente. Sì. Perché nel nostro di tutto rapporto, c'è bisogno in un paese la cui componente di consumi e domanda. Ne parleremo un po' proprio sulla parte delle previsioni. E quindi condivido totalmente l'obiettivo di evitare l'aumento dell'IVA e delle accise. Il problema però, che qui c'è la diversità della mia posizione e del nostro centro studi verso le posizioni dei governi, è il come. Perché come lo si è fatto in questi tre anni? Allora, più della metà di quel gettito previsto dall'aumento dell'IVA è stato, virgolette, coperto con l'aumento del deficit pubblico. La flessibilità dataci dall'Europa. E l'abbiamo chiamata flessibilità. Ora, bisogna far capire a chi ci ascolta che quando si è parlato e si parla di flessibilità, significa semplicemente questo, che chiediamo all'Europa il permesso di fare più debiti nostri e che dovremmo pagare noi. Sì. Non è che qualcuno ci regala sì, dei soldi che... da fuori. Quindi è un po' buffa questa cosa della flessibilità. Il che vuol dire che se noi otteniamo la flessibilità facciamo più deficit, quindi facciamo più debito italiano, in realtà spostiamo le tasse nel tempo. Esatto. Non le paghiamo oggi noi, ma con il maggior debito le pagheranno in più i nostri figli e i nostri nipoti. Lei sa che su già sono caricati. C'è una tendenza ovvia del ciclo politico a preferire il rollover, cioè dare il calcio alla lattina. E in questi anni nell'opinione pubblica, anche in chi ci ascolta, si è molto spessita l'opinione di coloro che dicono ma che c'entra, lo Stato può indebitarsi illimitatamente. No, questa idea del che c'è il pranzo gratis è un po' infondata. No, non esiste, esatto. E l'abbiamo vissuto concretamente, francamente, con le crisi da debito pubblico di vari paesi, ma anche la nostra nel 2011. Lo so. Una premessa: se la politica monetaria di Mario Draghi fosse stata fatta da Trichet ben prima, l'Italia non avrebbe avuto neanche la crisi da debito pubblico e lo spread famoso del 2011. No, ma questi quindi sono gli errori nel track record storico della BCE. Ecco. Esattamente, ma questo avrebbe anche cambiato lo scenario politico italiano, non solo europeo. E con ogni probabilità non avremmo avuto una così rilevante esplosione nelle opinioni pubbliche, negli elettorati di tutta Europa. Esattamente, i populismi, la coesione sociale, l'antieuropeismo e quant'altro. Certo. Ci ho detto. Ma questo sta in un altro libro uscito in inglese mio, proprio 10 giorni fa, dove faccio vedere le radici europee idee della crisi europea. Allora, siamo arrivati a questo. Aspetta un secondo, ci dobbiamo fermare perché ci sono le previsioni di borsa e le previsioni, gli andamenti di borsa in corso e un po' di pubblicità, e torniamo esattamente dal punto in cui ci fermiamo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Ed eccoci qui tornati col professor Mario Baldassarri, studio, occasione l'aggiornamento annuale del rapporto sull'economia del Centro Studi Economia Reale. Abbiamo visto quanto dobbiamo a Mario Draghi in questi anni, dal 2012 al 2017, tanto, 145 miliardi di PIL che non ci sarebbero, e 700 mila occupati in più che non ci sarebbero stati se non ci fossero state le politiche non ortodosse ma opportune della BCE, che anzi andavano adottate prima. E abbiamo visto nei DEF dei 5 governi da Berlusconi in avanti che in realtà ci sono costanti la sopravvalutazione della crescita sia reale che nominale, e quindi questa continuità. Ma con quello adesso di questo governo che succede? Bene, i dati storici del Ministero dell'Economia dicono che la spesa pubblica totale da 819 miliardi è passata quest'anno a 844, ed è prevista nel DEF di Gentiloni di settembre andare a 870 miliardi nel 2020. Allora, quando era 819, però? Era 819 miliardi? Nel 2012. L'anno prima di questa legislatura. Esatto. E all'anno finale di questa legislatura, diciamo il 2017, è 844 miliardi. Quindi aumentata di 14 miliardi. La spesa totale, quindi, non è diminuita, è aumentata in valore assoluto, in euro, che è la cosa più importante. Perché poi molti dicono, ma dobbiamo vedere la percentuale sul PIL, eccetera. Ma con la percentuale sul PIL la gente non va a fare la spesa, va a fare la spesa con il netto in busta paga. Se presenta. E allora questo nel bilancio pubblico è il netto in busta paga in uscita, cioè di spesa. All'interno di questo totale di spesa... Da 819, 844 sono 25 miliardi di euro spesa in più. 819, sì, esattamente, 841, perfetto. Al 2017. Dopodiché, all'interno di questo totale c'è la spesa corrente. La spesa corrente è aumentata ancora di più, da 755 a 782, quindi è aumentata ancora un po' di più, quindi a questo punto 27 miliardi. Ma all'interno della spesa corrente c'è anche la spesa per interessi sul debito pubblico, che invece che chiamiamo il bonus Draghi. Ora, gli interessi sul debito pubblico sono diminuiti di 18 miliardi, il che vuol dire che la spesa corrente al netto degli interessi, nonostante il bonus Draghi, cioè 18 miliardi in meno di euro per pagare gli interessi sul debito pubblico, ripeto, dati ufficiali del Ministero, la spesa corrente al netto degli interessi al 2017 è aumentata di 45 miliardi. Ecco, okay. Scusate, questa cosa ha una sua importanza, perché tutto il dibattito pubblico italiano si incardina sul fatto: basta con l'austerity, succhia sangue, lacrime e sangue di questi anni. Scusate, io pregherei il professor Bassari di ripetervelo: la spesa corrente è aumentata da A, lo vogliamo ripetere, professor? Al netto degli interessi di 45 miliardi. Allora, Dopodiché, fortunatamente, 18 miliardi li abbiamo risparmiati in termini di minori interessi, quindi la spesa corrente è aumentata di 25 miliardi, va bene? E dopodiché è chiaro che la spesa totale è aumentata un po' meno per un altro elemento, che si sono ridotti gli investimenti pubblici. L'austerità ha significato che la politica ha preferito limitare la spesa che costruisce futuro e PIL, cioè gli investimenti, per preservare quella con cui si accontentano constituency, eccetera, che serve per fare consenso, la spesa corrente, che è aumentata. Io questo continuo a dirvelo, ma è bene che ve lo ricordiate, che ha funzionato così. Due sono le componenti di spesa ridotte: una, interessi, San Mario Draghi, sul debito pubblico, vedremo quanto risaliranno con la fine del QE e con il ritorno agli interessi attivi, speriamo gradualmente. Sì, però questo è il tema vero è che il ci tema si vero pone del futuro nella prossima legislatura. E secondo, hanno tagliato gli investimenti, li hanno tagliati anche drasticamente, e complimenti a loro. Però intanto questa è la cosa che riguarda la spesa pubblica. E le entrate? Una precisazione, certo, ancora sul fronte della spesa. Attenzione, dentro i numeri di quella spesa sono rimasti intonsi, intonsi circa 50 miliardi di euro all'anno di trasferimenti a fondo perduto, in parte nel conto corrente e in parte nel conto capitale. e intonsi, anzi in aumento, le spese per l'acquisto di beni e servizi di tutte le pubbliche amministrazioni. Malgrado la Consip. Malgrado la Consip, malgrado il detto dell'austerity, cioè, che per esempio gli acquisti e le forniture nel settore della sanità, gestita dalle regioni, sono aumentati del 50% in questi anni, a fronte di un'inflazione che è stata sì e no negli ultimi 10 anni il 30%. Quindi... qualcuno dice, ma la popolazione invecchia. Sì, tutto vero, però mi dovete continuare a spiegare perché una siringa continua a costare 30 centesimi in una ASL e 3 euro in un'altra ASL. Comunque, cari ascoltatori, per dirvi, è giusto che nessuno, destra, tecnici, sinistra, capisca che in un bilancio in cui la spesa pubblica supera gli 800 miliardi, avere, come a oggi e ancora, 50 miliardi di cui metà trasferimenti a fondo perduto in conto corrente e metà in conto capitale, che a fronte invece di investimenti pubblici che si sono fermati, sono scesi a 35 miliardi, sono saliti solo a 36 miliardi quest'anno, 50 miliardi a fondo perduto, 36 miliardi di investimento. Ma che paese è? Questo è il tema vero. Che paese è? Questo è il tema vero. La domanda che c'è da porsi: a chi vanno quei 50 miliardi? Ecco il nodo della politica. A chi vanno? Lo sappiamo. Ho capito. In realtà, però, chi se ne occupa lo sa. No, io credo che vanno a milioni di italiani. Sì, vanno a milioni di italiani. Sommando le diverse constituency, non sono gli amici degli amici. Al bar. 10.000 persone. Sono milioni di persone che campano, sguazzano. Ho capito, ma gli effetti sulla crescita del paese, tra investimenti in cui si seleziona eccetera eccetera e trasferimenti ma a fondo perduto, le do subito un dato che gli economisti conoscono benissimo ma che l'opinione pubblica può capire facilmente: il moltiplicatore degli investimenti, cioè se io spendo 100 euro per investimenti pubblici quanto reddito produco, è tra 2,5 e 3. Cioè se spendo 100 euro di investimenti nell'arco di un paio di anni, veri investimenti, veri, non scritti sulla carta, progetti fatti, realizzati, progetti verificati nel tempo, verificati, progetti fatti bene, prima che insorgiate dicendo i moltiplicatori sono falsità, quelli fatti bene, controllati, diventano opere vere, esatto, fruibili, vuol dire che dopo 2 anni ho speso 100 e ottengo 250. Sui trasferimenti a fondo perduto, visto che noi non dico da sempre, ma prendiamo gli ultimi 25 anni, se negli ultimi 25 anni abbiamo speso 50 miliardi di euro all'anno, significa sostanzialmente 1.400 miliardi abbiamo speso. Ora, che rappresentano la metà o di più del totale del nostro debito pubblico. Allora noi potremmo dire, va bene, abbiamo questo enorme debito pubblico, però la metà di questo debito pubblico l'abbiamo usata per fare sviluppo al sud, occupazione, modernizzazione, infrastrutture e quant'altro, e quindi abbiamo dato un impulso alla crescita. Qualcuno mi deve dire se questi 50 miliardi all'anno di fondi perduti hanno un effetto. Io dico che il moltiplicatore è zero, sostanzialmente. Quello collettivo del paese, poi quello che va nelle tasche dei privati, magari lì il moltiplicatore è un po' più alto dal punto di vista individuale, sì, sì, ho capito, privatistico. Però, ecco, però questo, diciamo, è il quadro della spesa. Un vero governo di rottura sarebbe quello che dicesse il giorno dopo della sua entrata in carica: signori, su questi 50 miliardi ci riserviamo un'azione straordinaria immediata. Intanto immediata, molto semplice: 10 miliardi li conserviamo perché devono andare ad ANAS, ferrovie e trasporto pubblico locale, gli altri verifica immediata. No, faccio un decreto che non esistono più. Lei vuole la rivoluzione francese. E ci si dice, ma la legge prevede per gli anni futuri queste erogazioni. Ma il Parlamento non sta lì apposta insieme al governo per fare le leggi e temo cambiarle. Che non lo vedremo quel governo, però. Il che vuol dire però smentire una mistificazione di comunicazione assoluta. E cioè ci raccontano da anni, ogni giorno, 10 volte al giorno, che le risorse sono scarse, la coperta sì, è corta. No, che siamo adesso arrivati ben oltre i limiti, diciamo, che si può fare sul bilancio. Abbiamo raschiato il barile. Sabato il governo si incontra con i sindacati per il tema dell'età pensionistica, eccetera, e sul tavolo ci sono 300 milioni. Ma nel DEF c'è scritto che da qui fino al 2020 50 miliardi di trasferimenti a fondo perduto, l'andamento degli acquisti di beni e servizi, e poi vedremo dal punto di vista delle tasse l'evasione, rimarranno intonsi. Quindi è vero che le risorse non ci sono. Se queste restano, se noi dobbiamo di fondo, continuare però a buttare dalla finestra. Ma sulle entrate, rapidamente, come siamo andati? Ma sulle entrate, devo dire, visto che tutti dicono che le hanno abbassate. Sì, ecco, qui c'è un primo elemento anche qui di mistificazione, perché ci hanno sempre detto che tutti i governi, tutti, che tagliavano le tasse. Sì, sì. Allora, qui vi faccio l'esempio che io ho chiamato anni fa il mistero della finanza pubblica italiana, perché all'inizio di un governo o dell'anno ci si dice che il governo taglia la spesa, taglia le tasse e aumenta gli investimenti, cosa che ovviamente otterrebbe il consenso di tutti. Abbiamo più volte spiegato la cosa della spesa: si fa perché si guarda il tendenziale, non la spesa reale. Esatto, si dice che quelli sono tagli e non sono tagli. Il trucco è molto semplice: che il taglio di spesa è riferito all'aumento di spesa previsto per l'anno dopo, che non sta da nessuna parte. Che viene rivisto al ribasso, ma sempre però a una cifra superiore a quella della spesa precedente. Infatti, la spesa cresce. Questo è il tema. Ecco. Con le entrate si fa un po' l'opposto: nel senso che si dice tagliamo le entrate, sempre sulle previsioni. Sì. Il caso, per esempio, evitiamo l'aumento dell'IVA, esatto. Che vuol dire che nel 2018 non pagheremo quei 16 miliardi che sarebbero venuti dall'incremento dell'IVA. Perfetto. Bene, e questo è un pezzo. Però se con l'altra mano, a parte quella parte che me la butti sul deficit pubblico, che quindi sono tasse future, esatto. E il resto, 6-7 miliardi, me li copri con altre entrate. Il bilancio sono più di 7 miliardi e 9 entrate. Esatto, con altre entrate. E allora l'effetto sulla andamento delle entrate, che aumentano le entrate, aumentano meno del previsto, sì, ma più di quest'anno. Allora, in questa legislatura la cosa è molto semplice: nel 2012 avevamo 772 miliardi di totale delle entrate, nel 2017, quest'anno, avremo 807 miliardi di entrate previste in aumento a 820 l'anno prossimo, ok? E quindi in questa legislatura le entrate totali sono aumentate tra 35 e 40 miliardi, cioè gli italiani hanno pagato più tasse. Poi si può fare il conto, ma il rapporto al PIL, la pressione fiscale era 42,7, adesso è 42,6. Sì, ripeto ancora, né con la percentuale di spesa sul PIL né col totale delle entrate sul PIL la gente va a fare la spesa al supermercato, ci va col netto in busta paga. Allora, in quel netto in busta paga, durante la legislatura sono stati prelevati 40 circa miliardi di tasse in più. Ecco, allora ci fermiamo qua. Sintesi di questo secondo pezzullo è: la spesa corrente è aumentata e le entrate sono aumentate. Questo dicono i numeri ufficiali del governo, a saperli leggere e a volerne parlare apertamente. Torniamo dopo le informazioni sulle strade. La versione di Oscar. Allora, eccoci qua. E dopo aver appreso che grazie a Mario Draghi abbiamo avuto 145 miliardi di PIL che non ci sarebbero stati, dopo aver appreso che in realtà la spesa corrente è aumentata di 25 miliardi in questa legislatura, e dopo aver appreso che dal 2012 all'anno prossimo le entrate sono passate da 772 a 820 miliardi, quindi un quadro un po' diverso da quello che abitualmente trovate sui giornali e nell'informazione, andiamo alle previsioni. Le previsioni di Padoan, e gli abbiamo riconosciuto che è stato più corretto dei predecessori. Non ha fatto quella sovrastima in più di previsioni di crescita che i precedenti governi hanno fatto. Che dice? Ma sostanzialmente fa un'operazione che io ritengo di onestà intellettuale. E cioè, per esempio, nel DEF di settembre presenta un quadro tendenziale a legislazione vigente e un quadro programmatico rispetto al quale indica quali sono gli effetti che il governo stesso si attende dalle sue manovre di politica economica. Che in Parlamento cambieranno, questo si capisce, però per il momento lui lo fa ferme, a bocce ferme. E correttamente dice che l'impatto della manovra di bilancio 2018 sarà un sostegno alla crescita del PIL dello 0,3% in più nel 2018 e 0,3% in più nel 2019. Ora, su questo effetto della manovra il mio centro studi più o meno concorda, cioè noi andando a fare le nostre analisi su quello che potrà essere l'effetto della manovra abbiamo detto addirittura siamo un po' più ottimisti, è 0,4 nel 2018, però poi magari è meno 0,1 nel 2019 e non più 0,3, ma parliamo del 2018, è la legge di bilancio per il 2018. Bene, qual è l'inghippo qua? È però che il governo, nelle previsioni tendenziali a legislazione vigente, che quindi devono dare per scontato l'aumento dell'IVA sia nel 2018, sia nel 2019, sia nel 2020, presenta delle previsioni tendenziali che sono lì veramente molto sovrastimate, perché noi abbiamo fatto una simulazione e mettendo dentro l'IVA, l'aumento dell'IVA nel 2018, nel 2019, nel 2020, la nostra previsione tendenziale a legislazione vigente, cioè con dentro le clausole di salvaguardia, ci darebbe una crescita del più 0,8 nel 2018 e più 0,7 nel 2019 e 2020. Ora, l'effetto della manovra di bilancio del governo noi lo stimiamo in più 0,4, quindi lievemente più ottimisti dello 0,3, del più 0,3 di Piercarlo Padoan. Però questo effetto della manovra per noi va a calarsi su un tendenziale che è 0,8, quindi 0,8 più 0,4 fa 1,2, non fa 1,5. L'1,5 del governo deriva non da una sovrastima degli effetti della manovra, ma da una sovrastima che non si capisce bene da dove venga della previsione tendenziale, con dentro l'aumento dell'IVA. Resta il fatto che anche questo governo Padoan non è stato in grado di svellere la persistenza nella legislazione vigente per il 2019 e 2020 delle clausole di salvaguardia automatica fiscale. Questo è l'altro punto che si troverà di fronte il governo nella prossima legislatura, ammesso che ci sia una maggioranza, lo vedremo. Perché? Perché ricordiamoci che la manovra per il 2018 lascia intonse le clausole di salvaguardia per il biennio successivo e, come dice giustamente il governo, quelle sono valutate a 0,7% di PIL nel 2019 e 1% di PIL nel 2020, il che vuol dire circa 12 miliardi e mezzo nel 2019 e circa 18-19 in valore nominale. Giustamente. 18-19 miliardi nel 2020 stanno lì, sono comprese nella legislazione. Per evitarle bisogna fare altre leggi di bilancio. Ma allora io il giochetto, questa è la domanda vera, poi Giannino. Il giochetto negli ultimi 3 anni è stato evitare le clausole di salvaguardia, in gran parte aumentando il deficit, poi coprendo di fatto con altri tipi di tasse e spostare in avanti di un anno ogni volta l'azzeramento del deficit. Questo giochetto lo possiamo fare anche da qui al 2020? Ecco, e io qui le faccio la domanda non all'economista ma all'osservatore, perché nella realtà tutti e 3 i poli politici a questa sua domanda in campagna elettorale diranno sì. Cioè non solo possiamo fare, ma dobbiamo andare oltre, perché Renzi dice che noi dobbiamo fare per 5 anni tornare a un deficit del 2,9%, Renzi dice che ci vogliono 50 miliardi in deficit in più ogni anno. 1, 2, Berlusconi non dice questo, però dice certo bisogna. Berlusconi non dice qualità. Salvini dice che lui vuole immediatamente chiedere all'Unione Europea di via l'opting out per tutti i trattati Maastricht compreso in poi, o altrimenti un'uscita contrattata del tempo, quindi un'uscita diciamo così cauta per non creare problemi all'Euroarea neanche a noi dall'euro. E quindi loro non ci si riconoscono più in queste regole di riduzione del deficit tendenziale strutturale, voglio dire, negli anni. Questo è il problema. Ma per dare risposta a questo ragionamento e calarlo nella realtà dei dati con i quali dovremmo confrontarci sia all'interno dell'Italia sia soprattutto nei confronti della Commissione Europea, ma dico di più, nei confronti dei mercati finanziari internazionali, perché poi al di là di quello, ecco. Allora, oggi la previsione che incorpora la manovra di bilancio nel 2018 ma mantiene le clausole di salvaguardia nel 2019 e 2020, così come il governo ha onestamente detto, è che dopo l'1,5% di crescita di quest'anno dovremmo arrivare a 1,3 l'anno prossimo, ma scenderemmo a 0,7-0,6% nel 2019-2020. Guarda caso, questa nostra previsione che abbiamo prodotto 10 giorni fa coincide molto da vicino con quella uscita l'altro ieri dal Fondo Monetario Internazionale. Beh, è una coincidenza, però questo è. Questo è il quadro con il quale dobbiamo confrontarci in termini di profilo di crescita e di ripresa. Auguriamoci solo. Però questo noi siamo... determina un quadro di finanza pubblica nel quale noi ci mangiamo gran parte dell'avanzo primario, il deficit non lo azzeriamo e soprattutto il rapporto debito-PIL scende di qualche decimale se tutto va bene, ma come ha detto già la Commissione Europea sta poco sotto il 130% nel 2020. Allora, conclusione, auguriamoci che ci sia un po' di responsabilità, dipende da voi che votate, ma dipende anche da loro. Questi numeri qua di oggi intanto non li sentite, e non è un buon segno, perché bisognerebbe che fossero più diffusi. Io ringrazio ancora una volta il professor Mario Baldassarri per questa sua opera, diciamo, di didascalica, ecco, sì. E intanto appuntamento domani come sempre all'8 quarto con me e Luca Telese, 24 mattino, e poi pomeriggio qui alla versione di Oscar.